avvenuta il 5 novembre in Dubagna, nel cuore del quartiere popolare di Noal. E appunto questa intervista parla delle difficoltà dell'abitare, della gentrificazione dei quartieri popolari e della gestione di quello che lui chiama i mercanti del sonno. Conoscevi bene quegli edifici? Sì, è da tempo, erano molto degradati in uno stato catastrofico. Sono passata il 63 di Ludo Bagn l'ultima volta 2 mesi fa e ho detto alle persone che si erano trasferite lì che c'erano delle crepe e che era pericoloso, ma loro ovviamente mi hanno risposto: dove vuoi che andiamo, o quello o la strada. Tutto ciò in linea generale è molto rappresentativo della situazione annuale. Sono anni è stata lanciata l'allerta e con un amico giornalista a Radio Galera già una 15ina d'anni fa denunciavamo 6 mercanti di sonno in vista che imperversavano da quelle parti, uno tra i quali al numero 63. Da allora uno solo di questi è stato condannato a 6 mesi di prigione. Quando è uscito ha ricominciato i suoi traffici come se niente fosse. Bisogna dire che i poteri pubblici sono di un lassismo incredibile con loro, che sia annual o altrove. Possiamo denunciarli, far venire alla luce le informazioni, ma tutti chiudono gli occhi, con il risultato che questi faccendieri si riempiono le tasche a scapito dei meno abbienti. E oggi questi ultimi pagano un tributo pesante, con 8 vittime accertate e forse altre non conosciute. Il ministro della casa, Julien de Normandie, si è dimostrato veemente nei confronti dei mercanti di sonno, ma non sappiamo cosa farci nelle parole. Qui i poteri pubblici conoscono tutti gli abusi di questo genere e anche l'identità degli interessati. A che serve aggiungere una legge? Hanno già i mezzi per colpire questa gente. Il problema è che non lo fanno mai. E secondo te perché questo immobilismo? C'è una strategia volta a far marcire questi quartieri popolari situati in piano centro città. Più si degradano e più per una persona messa a Vimbernasconi a capo della circoscrizione può dire che il quartiere è vetusto e che bisogna cambiare tutto. Ma non cambiare per rinnovare, no, piuttosto per cacciare le popolazioni poco agiate che ci vivono. La signora Bernasconi vorrebbe ricalcare lo sviluppo di Marsiglia su quello delle città della Costa Azzurra. E sembra proprio che, per riuscirci, abbia deciso di non fare niente per le abitazioni degradate, in modo da giocare sulla speculazione. Una volta gli affitti saranno aumentati, ai meno abbienti non resterà che sluggiare verso i quartieri a nord o altrove. Eppure nei dintorni ci sono stati grossi investimenti, in particolare nella vicina piazza Saint-Jury. Un vero scandalo. Hanno appena impiegato 400.000 euro per il volo della vergogna alla Plaine, che si presume debba difendere un progetto campato in aria da 20 milioni di euro, e non sono capaci di immettere qualche milione di euro per rinnovare gli immobili. Il peggio è che questo non stupisce più nessuno. Ci siamo abituati. Ritroviamo la stessa incuria nella gestione delle persone che vivono per la strada. La città di Marsiglia esercita il diritto di prelazione da anni su decine e decine di immobili, ma se si guarda le liste solo un pugno di essi sono stati riabilitati e redistribuiti a degli affittuari. La maggior parte sono chiusi, anche da più di un decennio. Si costruiscono invece uffici a tutto spiano, si commissionano a Vinci e all'architetto Jean Nouvel una torre immensa per attirare nuove imprese, mentre in centro Marsiglia centinaia di uffici vuoti si trovano, in particolare nella zona della Pordei. In parallelo ci sono migliaia di persone per strada, si stima tra i 12.000 e i 14.000, e mentre centinaia e centinaia di case vuote in centro sono presenti in centro, non viene fatto niente per riempirle con chi una casa non ce l'ha. E il peggio è che il comune viene a chiedere a noi che lavoriamo nel sociale perché aiutate la gente ad occupare. È una realtà che conosciamo in memoria. La nostra associazione ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone più sfavorite, che queste abitano per strada, in una bidonville o in un'occupazione. e posso dirti che questa problematica non tocca solo Noal. Tutti i quartieri popolari ne soffrono, Le Canet, Maison-Blanche, Saint-Just, alcune parti addirittura della Belle de Mai. C'è un esempio flagrante, è il Parc Corot, con la sua trentuna di blocchi di edifici prostrati da una miseria latente. È un consorzio di mercanti del sonno, con appartamenti nella maggior parte dei casi lasciati all'abbandono dai loro stessi proprietari. È indegno, la miseria viene creata sulla miseria. Stando a contatto con queste realtà ho una cosa da dire. È tempo il signor Godin e i suoi sbirri si sveglino, che mettono liquidità per gli immobili e si diano come priorità di ricollocare i meno abbienti. Ci sentiamo un pezzo musicale, Motives, Le Sempre de Cerise. Per quanto riguarda Noal, sembra che l'idea sia di lasciare il posto a popolazioni più ricche, come testimonia la costruzione di un hotel di lusso all'ingresso del quartiere. Sì, effettivamente quell'hotel anticipa ciò che succederà a Noal. E senz'altro la clientela che ci aspetta non è quella presente di solito nei dintorni che ci abita adesso. Allo stesso modo abbiamo visto apparire di recente dei Songs of Soar, che suonano totalmente con l'ambiente. Insomma, è l'avanguardia dei fighetti con i soldi che sta sbarcando. Noal è un quartiere popolare, vivace, secolare. È questo a non piacere per niente ai poteri forti. In Rue Longue de Campuchin, che incrocia la saletta della Rue d'Aubagne a Val, il rinnovamento annunciato farà sparire tre quarti dei commerci, perché per avere un negozio in un quartiere in una via di rinnovamento bisogna piacere al comune, un'ulteriore forma di clientelismo. Per tornare alle trasformazioni del quartiere, si iscrivono in una forma di gentrificazione a lungo termine. Sicuramente. Tutto è cominciato alla fine degli anni 70 con la demolizione del quartiere delle Chapelier. C'è stata anche l'epoca della Canebière. Prima del suo rinnovamento era un'arteria vivace, in attività 24 ore su 24, con 5 o 6 cinema. Poi Gaston Defer, il sindaco di allora, ha lanciato la prima linea della metro, un modo per fare piazza pulita, riutilizzando allo stesso tempo la terra dei lavori per ingrandire le spiagge nei quartieri chic. In seguito se la sono presa nel Cours Estienne-Dauphre, Cours Julien e via dicendo. Più di recente c'è stata Rue de la République, dove hanno creato un deserto. Gli abitanti sono stati espulsi per rinnovare, aumentare gli affitti e far affluire una popolazione ricca, che non è mai arrivata, tra l'altro. Adesso con Noir et Le Plain se la prendono gli ultimi quartieri popolari, che sono luoghi emblematici. Vogliono ricalcare lo sviluppo del Vieux-Port, farne degli spazi asettici per i turisti e le classi abbienti. Sapendo che tutto ciò viene fatto senza informare o far partecipare la popolazione alle decisioni, con gli abitanti e con chi vive questa piazza da anni, apprezzando ciò che offre, la sua convivialità e il suo cosmopolitismo. Per rispondere all'infamia lanciata all'assessore responsabile del quartiere della Plaine, Gérard Genoz, a proposito delle persone dell'assemblea della Plaine che lottano contro il progetto di alzare la gamma delle abitazioni, voglio dire, non siamo solo fumatori di canne o panca bestia, sappiamo riflettere, non siamo contro il rinnovamento, ma contro i progetti privi di senso e pensati per allontanare gli indesiderabili. E per di più abbiamo fatto proposte concrete. Il comune ha replicato che non era il caso di discutere, non c'è niente da vedere. Come ultima risposta hanno costruito un muro alto 2,5 metri, pensando di calmare le proteste degli oppositori e delle oppositrici. Conosciamo la storia, ogni volta un muro è stato costruito ha attizzato odio e unito le persone tra di loro. Cosa fare per cambiare? Quel che è appena successo a Rue d'Aubagne rivela il vero morto di Marsiglia, così come il muro eretto in piazza. È ormai tempo di denunciare e organizzarsi. Ci sono i margini per smuovere la situazione e tirare in causa quelli che dirigono la città, perché i dirigenti marsigliesi non sono nemmeno del tutto coscienti di quello che sta succedendo in città. Sono talmente immersi nel loro affarismo che non vedono niente. La gente si deve svegliare e credo la chiave risieda nell'alleanza tra i diversi quartieri abbandonati dall'incuria municipale. Un'alleanza si farà, naturalmente. Una catastrofe urbana mortifera a 500 metri in linea d'aria da un progetto da 20 milioni di euro alla Plaine, a un certo punto la collera esploderà. Questa è l'intervista pubblicata su Jeff Clark del novembre del 2018. È stata pubblicata anche su Dynamo Press. È quindi una puntata tipica di Senza Frontiere, in cui invece dell'intervista diretta abbiamo letto un'intervista, ma che ci sembrava interessante proprio perché evidenzia che il crollo è un Rue d'Aubagne in cui peraltro è deceduta anche una cittadina italiana, una giovane italiana, proprio a testimonianza della multiculturalità e del cosmopolitismo di questi quartieri. Appunto il crollo di Rue d'Aubagne non è una fatalità, ma è frutto di un preciso intervento da parte dei poteri forti della città, o meglio di un preciso non intervento dei poteri forti della città, che tende sempre più a espellere i proletari, le classi meno abbienti dai quartieri centrali delle città europee, per favorire un processo di speculazione edilizia e di gentrificazione, atto in questo caso a favorire soltanto le classi più ricche. Un processo si sta espandendo, ben avviato in molte, se non in tutte, le principali città europee, e che sarà una delle tracce e delle prossime trasmissioni di Senza Frontiere. Ricordiamo appunto che Senza Frontiere va in onda il lunedì alle 14.30, in replica il giovedì alle 17.30 e il giovedì sempre alle 14.30. Lo potete anche riascoltare in podcast, l'ultima trasmissione, ma comunque tutte le trasmissioni Senza Frontiere, andando proprio al sito della radio wombat.noblox.org, alla sezione podcast, dove peraltro ci sono i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Alla prossima, ciao ciao.